È nata da una non rassegnazione, è nata da una non resa, è nata da una necessità di pensare che non sempre la quantità fa la differenza, però 600 persone in fondo al mare, se non richiamano ancora un allarme, un soccorso, ma è tutto accessorio. Accessorio vuol dire che è secondario, si può fare ma non è necessario. È stato un soccorso secondario, hanno portato questa barca in una zona neutra, è un mare di nessuno, infatti se voi vedete, vi accorgete, nessuno li ha pianti o nessuno ha fatto lutto, se non in Pakistan. Io stamattina ho invitato anche l'imam, che ci sarà probabilmente giovedì, perché 240 sono pakistani, per capire che cos'è questa terra. Oggi so che stamattina Figliolo sarà dagli alluvionati e si parlerà appunto di 19 morti, si parlerà di annegati, si parlerà... Io penso che tutto questo sia estremamente collegato, continuamente collegato, gli allagati dopo la diga dell'Ucraina. Noi notiamo che l'acqua sta facendo un lavoro che noi non riusciamo a capire, a tradurre. Allora io ho voluto 600 colpe di campana, sottolineare il rintocco pesante, lungo, che si protrae per quasi un'ora, proprio per sentire queste gocce come nel mare che entrano, tan, tan, tan, vanno giù. E dalla Torre dell'Arengo, che il comune mi ha dato, non per una laicità, qui, come ho detto, è un'azione silenziosa, artistica e spirituale. Non c'è un... Io laico è una parola che non uso mai. Sono coinvolte tutte le chiese, sono coinvolte tutte le persone, e la sostituzione italiana, come vedrete nel comunicato, sta già mettendo via. La sostituzione viene quasi prima della Costituzione, nel senso che la sostituzione ha già sostituito con altri temi, altri argomenti, non se ne parla più. Io so che davanti a Lampedusa è Lampedusa d'Italia, io so che davanti a Cutro e poi li abbiamo visti, qui non abbiamo visto niente, non abbiamo visto nulla, non è stato fatto nulla. E l'Europa, mi rivolgo soprattutto all'Europa, perché veramente in questo momento devo dire che ha una licenza di uccidere che io non permetto. Assessore, è un momento di riflessione per ricordare le vittime di questo naufragio che, come diceva anche Bergonzoni poco fa, forse è stato un po' dimenticato. Sì, abbiamo accolto subito l'idea di Alessandro Bergonzoni e insieme abbiamo scelto di farla riverberare dalla Torre dell'Arengo, dalla campana dell'Arengo, che storicamente è anche la campana che chiama raccolti bolognesi dal 1200. E li chiama quando? Quando c'è un allarme. Sono campane di democrazia, in fondo. Quella torre ha risuonato con la caduta del fascismo, suonato per la liberazione, e ogni 21 aprile suona. Ecco, quindi decidere da quella torre di far risuonare e rintoccare 600 colpi e 600 colpe, come ha giustamente titolato Alessandro Bergonzoni, 600 colpe di campane, significa lanciare anche dalla nostra città, anche dal cuore della nostra città, Piazza Maggiore, un urlo artistico, laico, civile, politico e poetico al tempo stesso, per alzare davvero le nostre coscienze e alzare anche quel silenzio che purtroppo lo vediamo, la dimensione dei migranti e dei morti in mare ancora porta con sé.